www.radioticino.info per quanto riguarda anche la possibilità di ascoltarci attraverso via streaming, speriamo funzionante nonostante le avversità atmosferiche. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info. Domani sul sito della radio e sulla pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder andrà chiaramente la registrazione di questo programma. Quindi si va a salutare in Sardegna Maya e Nicola Locci, Stigmata Hexagonal. Dalle parti di Cortina d'Ampezzo, Tabula Rasa, il medico della peste, il buon Gianluca Becuzzi e Maria qui a Roma. Grosso personaggio della scena industrial, Andy Rivieni, credo dal Piemonte. Attualità nera, tra le altre avventure di Andy Rivieni. Noi dunque si va ad iniziare immediatamente con una uscita abbastanza recente, non è l'ultima, ma abbastanza recente, soprattutto a livello di ristampe, per quanto riguarda Murkoff, un personaggio della scena tra techno e ambient messicano, che è stato anche ristampato dalla Glacial Movements Records, etichetta a noi molto cara. È stato ristampato nel 2018 questo lavoro, che in realtà è di 6 anni fa e che si chiama Lost in Time. Album in questa circostanza soprattutto tra ambient, il cosiddetto murder classical, con un retrogusto gotico abbastanza consistente, come poi si potrà percepire anche da queste prime 3 tracce che vado a mandare, ossia Introduction, Chapitre 1 e Chapitre 2. Diavolo di un Murkoff ogni tanto ci sorprende e lo fa attraverso questo Lost in Time, un album del 2014 ristampato dall'etichetta romana Glacial Movements esattamente 2 anni fa. Effettivamente lo ricordavamo con campionamenti di musica classica. Ciò che ha esasperato in senso buono in questa performance è l'aspetto più gotico, con queste performance corali molto belle, con questi organi così profondi, chiesastici, come si suol dire. Intanto vado a salutare, un grosso abbraccio a chi ci ha chiamato al telefono Aurora, che è stato veramente conquistato proprio da Murkoff. Saluto Like Awake qui a Roma, progetto di Dark Ambient. Roberto Faloci, anche lui un musicista con la stessa attitudine più o meno di Like Awake, attraverso Phantom Ship. Un saluto anche a Isetual da Milano. Ci spostiamo verso la Unexpressed Sounds Label, l'etichetta che ormai non ha più bisogno di presentazioni, fondata, gestita, curata da Raffaele Pezzella, musicista anche lui come sonologist. Imperdibile anche questa compilation che riguarda la musica balcanica nei suoi aspetti più sperimentali, e quindi Pezzella è andato un po' a pescare talenti sparsi qua e là in questa penisola. Questa sera c'è Purec, che credo sia sloveno, Simon Sers, anche se non sono sicuro. La cosa sicura è che questa traccia si chiama Krun Makula, eccolo qua, Purec. gli evocativi tappeti ambient, anche con questi disturbi provenienti, sembra, da mondi lontani, per quanto riguarda Purec. Krun Makula. Simon Serz, di probabile origine slovena, l'abbiamo conosciuto anche come Cadlag e una serie importante di progetti, anche se personalmente l'ho conosciuto tramite sempre Raffaele Pezzella, che ci ha reso edotti di tantissimi nomi nascosti nell'underground mondiale. Altro artista che sta per partire dalla medesima compilation è il serbo Plamen Beksnosti. E sta per partire la breve ma incisiva Lux Ultra. Dunque, due personaggi provenienti dall'ex Jugoslavia, Purec e Plamen Beksnosti. Naturalmente da questa, come la definisce Gianluca Becuzzi, ricognizione balcanica ad opera di Raffaele Pezzella, che ne ha tirate fuori nel passato veramente di belle compilation da ogni dove. Io personalmente ho un debole per la musica proveniente dall'Iran, giacché c'è lì un misterioso tocco etnico che ogni tanto viene fuori e si unisce egregiamente alla sperimentazione odierna. E invece adesso andiamo dalle parti della Hellbones Records del buon Daniele, attraverso un split tra Wear and Tear, Petrolio e Yuko Araki, quindi un progetto concepito con tre artisti. E se nelle scorse settimane abbiamo apprezzato molto l'ambient di Wear and Tear di Davide Bacci, questa sera andiamo dal nostro amico Enrico Cerrato, in arte Petrolio, dal profilo più industrial, insieme a Yuko Araki, di chiara origine giapponese. E di loro ci ascoltiamo Astral Void di Black Cave e Ancient Abyss. Dunque, Petrolio e Yuko Araki da questo Omen 300-32019, misteriosissimo codice. Salutiamo Gennaro D'Elena di Instant Lake da Napoli e Francesco Cornello in quel di Bergamo. Ancora loro dunque, Petrolio e Yuko Araki. E un saluto a Eloquence Recycle, il carissimo H501L. Non male la scelta di unire questi tre artisti molto diversi tra loro, soprattutto Weird and Tear, decisamente sul dark ambient, con queste spigolosità di Petrolio e Yuko Araki, arricchite però da spirali di kraut rock, probabilmente ad opera dello stesso Yuko Araki, che ben si sposa con l'attacco sonoro di Petrolio. Omen 30032019 della Hellbones Record. Momento dedicato a Gianluca Becuzzi, spesso presente nelle nostre selezioni, ma d'altronde il personaggio merita. Sono molti anni che calca le scene italiane dai lontani anni Ottanta e negli ultimi anni ha acuito il suo approccio sperimentale alla materia. È il tempo di In Between, un succosissimo doppio CD che ce lo restituisce in versione tra drone e noise, con una chitarra suonata dallo stesso Becuzzi anche bene. Album da godersi, noi ci godremo la terza traccia dal nome Minos parte 1, che già è stata, come dire, scoperta la scorsa settimana, un'influenza proveniente da David Bowie e Brian Eno quando collaboravano e si parlava appunto di quel periodo berlinese di David Bowie. I più riconosceranno dunque questi echi lontani in questa Minos. Passaggio dunque obbligato per Gianluca Becuzzi da questo bellissimo In Between, il suo ultimo lavoro. Becuzzi, lo abbiamo già detto, particolarmente attivo negli ultimi tempi. Quest'anno credo 3 album, se non ricordo male. Questo In Between a metà tra il drone e il noise, con chitarra elettrica, droning e ovviamente la bella voce di Gianluca Becuzzi. Il campionamento, come molti hanno intercettato, è da Sense. Campionamento, diciamo, il rimando ci ha fatto venire in mente Sense of Doubt da Eros, l'unico album di Bowie che io apprezzo, già che non ho una grande stima artistica per quel personaggio, ma ci ho provato, ma non c'è niente da fare. Però l'unico album che apprezzo di Bowie, forse perché è fatto con Ino, è proprio Eros, credo dal 75. Allora, queste prove tecniche di trasmissione ogni mercoledì sera dalle 21 sino alle 22:30. Vado a salutare Veronica qui a Roma. Becuzzi, chiaramente ce lo ascolteremo prossimamente. Noi si va avanti e torniamo invece indietro nel tempo e di molto, per arrivare al 1981. In quell'anno usciva anche questo Deforme 2 Virgin Flavor, dunque secondo lavoro per i Deforme di Philippe Fichot. Un progetto che ha avuto delle fasi abbastanza diverse, con la sperimentazione, l'industrial, l'EBM, il synth pop, tanti anni anche per lui di attività. E quindi noi stiamo facendo questo ripassino con il secondo lavoro che si apriva allora con Rapid Flash numero 1.